prime ripercussioni negative della vicenda del latte contaminato in Campania. La Corea del Sud ha deciso di mettere al bando la mozzarella di bufala importata dalla regione. Il provvedimento è stato adottato in seguito alle notizie di possibile contaminazione da diossina. La scorsa settimana erano scattati in Campania controlli a tappeto in allevamenti di bestiame e caseifici dopo che le analisi effettuate avevano riscontrato la presenza di diossina nel latte. Una contaminazione che, secondo gli esperti, sarebbe da mettere in relazione allo sversamento di rifiuti tossici nei terreni agricoli, ma potrebbe anche essere legata ai numerosi roghi di spazzatura appiccati in Campania per l'emergenza rifiuti. La Corea importa circa 10 tonnellate di mozzarella l'anno. Il paese fa sapere che effettuerà propri test per verificare l'eventuale contaminazione. L'allarme è ingiustificato, dicono i veterinari, che ricordano come in questo periodo ci sia una vigilanza attentissima, tale da consentire di mettere sul mercato solo mozzarella controllata. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli.